Benvenuti su Cinema Virale. Buonasera a tutti e bentornati in una nuova puntata di Cinema Virale, ovvero il cinema e la morte al lavoro. In questa nuova puntata tratteremo un argomento allegro, anche un po' nostalgico se vogliamo. Vi faccio un esempio: quante volte da bambini o durante l'adolescenza ci siamo resi conto di avere sentimenti contrastanti, che non riuscivamo a capire bene, che quindi non riuscivamo ad esporre altrettanto bene. In quei momenti avevamo bisogno di esempi da seguire, di qualcuno con cui confrontarci per poter capire cosa si stava realmente provando. E in quel momento per noi cinefili c'era il cinema, per alcuni c'era la letteratura, per altri la pittura. Noi qui parliamo di cinema e quindi ci concentriamo su questo. E una cosa positiva, almeno per quello che riguarda la mia esperienza personale, è che non fossi solo io in prima persona a ricercare i film, ma ci fosse qualcuno che me li proponeva, che usava questo canale comunicativo. Canale comunicativo che credo e spero che venga utilizzato più spesso dai genitori. E in questo caso parlo proprio della visione dei film, perché molte volte anche lo stesso atto di vedere un film insieme sul divano è già un atto di unione, di rilassamento e di coesione tra persone. Quindi per questa puntata non ho pensato a un ospite d'eccezione, non c'era nessun altro da poter portare se non colei che mi ha cresciuto in questo modo e quindi mia madre. Ciao mamma Patrizia. Ciao, buonasera a tutti. Allora, sostanzialmente qui devi parlare di come mi hai cresciuto. E come mi hai cresciuto, mamma? Mia mamma si rende conto che mi ha cresciuta male. Comunque, andiamo avanti. No, allora, mamma, ti faccio una domanda. Gli altri devono giudicare come ti ho cresciuta, io non posso dire nulla, no? Puoi essere... Se il risultato piace, vuol dire che ho fatto un buon lavoro. E questo lo facciamo dire agli altri allora, quanto siamo diplomatici. Partiamo da una domanda semplice, quindi perché i film? Cioè tu come ti approcci ai film? Che sensazioni ti danno i film? Perché ti piacciono i film? Il cinema per me è come leggere un bel libro, soltanto arricchito da immagini cinematografiche. Quindi deve essere una bella storia che mi deve coinvolgere, mi deve appassionare e mi deve suscitare delle forti emozioni, come quando si legge un libro. Un libro che non ti piace, io generalmente che non mi piace lo accantono. Così un bel film mi deve coinvolgere, mi deve arricchire e devo uscire dalla sala cinematografica contenta di aver visto un bel film. E che ti dà anche la possibilità di confrontarti con altre persone, di discutere, quindi da far sì che possa nascere una discussione sul tema che abbiamo visto. Quindi cinema che fa discutere, ed è per questo che in un certo senso alla fine quando mi hai fatto vedere determinati film era anche perché volevi che ci confrontassimo su determinate cose, su determinati argomenti, su determinate sensazioni. E ti ricordi, mamma, un episodio in cui il cinema mi è stato d'aiuto? Allora, inizialmente è chiaro, come tutti, hai incominciato a vedere i film della Disney, no? Sì, sì. E quindi è una tappa obbligata vedere quei film. E effettivamente lì è già scattato qualcosa in te. Vedendo Pinocchio... Eri sola a vedere il film Pinocchio, io ero in cucina che lavavo i piatti, a un certo punto venisti da me quasi in lacrime, dicendo che avevi detto una bugia, anche se indotta a farlo da altre persone, e quindi eri proprio triste perché avevi detto una bugia, e quindi avevi capito che mentire era sbagliato e che potevi diventare come Pinocchio. E questo ti ha fatto proprio... È il primo messaggio che il film ti ha fatto comprendere, no? E quindi della menzogna. E quindi lì, in quel momento, tu avevi appreso qualcosa di positivo. Sì, è vero, mi ricordo anch'io questa scena, effettivamente. Ecco, hai detto una cosa giusta, la tappa dalla Disney è una tappa obbligata per la maggior parte dei bambini, anche adesso che ci sono i live action. Quindi voglio dire, noi bambini, cioè noi, non sono più bambina, però ogni bambino si confronta con il cinema già da piccolo, involontariamente, comunque il cinema d'animazione è un signor cinema, poi la Disney ha tutta una storia alle spalle. Quindi da lì in realtà si crea già terreno fertile per poter inserire delle piccole mi sono impappinata, dei piccoli mattoncini di cinema, e per creare, prego, parli. Però bisogna avere anche la sensibilità per recepire determinati messaggi. Quindi tu sicuramente con la tua sensibilità avevi colto nel segno il messaggio di Pinocchio. Quella sensibilità si chiama trauma. Vabbè, ma purtroppo l'hai ereditata. Grazie. Detto questo, comunque andando avanti con il nostro percorso di vita insieme, a un certo punto ho dovuto inevitabilmente smettere di vedere i cartoni della Disney, nonostante ancora oggi qualche volta me li rivedo volentieri. E siamo passati ad altri film che mia mamma sta accarezzando qui in questo momento. E beh, sono bei ricordi. Ne abbiamo vari in realtà. Allora, uno dei primi film che mi ricordo che mi rimase più impresso è ovviamente il colore viola, che me lo facessi vedere a 11 anni. Perché giustamente la mia maestra degli elementari a 9 anni ci aveva fatto vedere Roma città aperta, quindi dice, vabbè, mi hanno già spalancato la strada, proprio sfondiamo tutto. Quindi, perché il colore viola? Perché è una storia che racconta innanzitutto di un fortissimo legame fra due sorelle che non si è mai arrestato, nonostante la distanza e di anni e anni che passeranno da quando loro si lasciano a quando poi loro si ritroveranno. E soprattutto perché racconta sicuramente della violenza, no? E che comunque da quella violenza, anche se dopo anni, eccetera, da quella violenza, può nascere qualcosa di positivo. La violenza non è mai giustificabile, anche se a quei tempi c'era molta ignoranza. E quindi anche questo è un significato da apprendere, no? Che comunque la cultura serve. Che la famiglia serve a far sì che determinati meccanismi, determinate cose non accadano più, anche se purtroppo oggigiorno succedono quotidianamente. E quindi poi, vabbè, Spielberg è un bel film, la trama, la sceneggiatura, la scenografia. No, sì, mi ricordo solo che ero molto piccola, cioè avevo 10-11 anni, come Forse dicevo. eri un po' troppo piccola per quel film, però Però dopo l'hai apprezzato. sì, è stato un film che sul momento magari ho, cioè, molte dinamiche non le ho capite, sarò molto onesta. Per quanto la trama in realtà sia semplice, non è una trama psicologica o complicata, parla di famiglia, parla di violenza e parla d'amore. Però tanti meccanismi non li avevo proprio compresi o comunque apprezzati perché ero ancora nella fase in cui mi stavo staccando dalla Disney e tu sei arrivata proprio con il colore viola. Però sì, poi rivisto già in adolescenza è stata tutta un'altra storia. Dopo questi ci sono stati vari altri film, tra cui anche il film Sabrina, perché giustamente. Non soltanto film così, diciamo, un po' profondi, no? Ma abbiamo anche spaziato con la commedia anche americana, Sabrina, Colazione da Tiffany e così via. Harry ti presento Sally, che è un film divertentissimo che vediamo molto spesso perché ci fa ridere, ci fa star bene. È una storia di amicizia che diventa qualcosa di più, come può accadere, no? Persone che si professano amiche e nell'impossibilità di diventare qualcosa di più, poi all'improvviso scoprono che non possono fare a meno l'uno dell'altra. E poi vabbè, la frase finale è bellissima, no? Il monologo, cioè E questo lo la dichiarazione. dici tu. No, beh, io non me lo ricordo a memoria la dichiarazione di Harry a Sally, però mi ricordo che è un film che mi fece molto ridere, anche perché Nora Ephron comunque è stata una grande regista e sceneggiatrice. Il film è diretto da Rob Reiner, comunque sì. Però, mamma, ti dico che oggigiorno, in questo 2020, è stato criticato anche Harry ti presento Sally, perché secondo alcune critiche femministe, e non solo, anche di uomini, rappresenta un metodo datato di corteggiamento. È anche un metodo maschilista di corteggiamento. Era il corteggiamento di quegli anni. Ok, quindi era un corteggiamento maschilista. Per carità, è vero che molte dinamiche non cioè, sono impensabili, però definirlo antifemminista è un po' È troppo. comunque una commedia, bisogna vederla per quella che è, insomma, con molta leggerezza. E contestualizzare un attimo, siamo nell'89 qui. 89, sì, sicuramente gli uomini si approcciavano così alle donne, avevano quel modo di pensare, però è divertentissima come commedia, cioè ora non stiamo a guardare, No, cioè, certo. il capello, insomma, ha fatto divertire tantissimo, insomma. Sì, è vero, è un cult, diciamo, di fine anni 90, Harry ti presento Sally, c'è anche Carrie Fisher. sì, poi abbiamo in realtà tanti altri film, Anche anche no. meno noti, non so quanto sia meno noto, però parliamo in modo specifico di Scoprendo Forrester. Con il mitico Sean Connery, Che ci ha lasciato che ci ha lasciato, sì, purtroppo. poco tempo fa. Bellissimo, bellissimo, un uomo che è migliorato con il tempo. Va bene. Sì. E io ho voluto che Sabrina, ho voluto acquistare questo film per Sabrina perché è una storia di una profonda amicizia tra due persone di generazioni proprio distanti e come anche le persone che possono sembrare schive, scontrose, chiuse nel loro uovo, nel loro guscio, poi possano rilevarsi delle persone ricche. Ricche. In questo caso parliamo di uno scrittore che addirittura aveva vinto anche il premio, Pulitzer. il Pulitzer, sì. E quindi nasce questa profonda amicizia tra questo ragazzo di colore e questo scrittore. È una storia bellissima, bellissima, che secondo me tutti i ragazzi dovrebbero vedere. È vero, è uno dei pochi, cioè dei meno noti forse con Sean Connery rispetto magari a non so, L'ultimo cavaliere o robe così. Però è veramente, veramente bello. C'è anche una giovane Anna Paquin che. Di lì a poco inizierà ad addentrarsi nel mondo della televisione con True Blood. Comunque, sì, Scoprendo Forrest è stato anche questo. Mi ricordo che è un film che mi facesti vedere abbastanza presto, forse un annetto dopo Il colore viola, verso i 12 anni. E anche lì fu un film che ho dovuto rivedere dopo. Ero stupida in preadolescenza. Eri piccola, forse io ho cercato di farti vedere un po' troppo presto dei film che avresti compreso soltanto dopo qualche tempo. Ma probabilmente, cioè, hai fatto bene comunque a mettere un punto, perché secondo me è stato molto, molto importante, perché sono stati comunque dei punti da cui partire in seguito. Poi ovviamente noi con internet abbiamo iniziato a scoprire il cinema in un modo differente, cioè non solo andando in sala, ma per scoprire, non so, il cinema, diciamo, più datato, tra virgolette. Abbiamo avuto i motori di ricerca, lo streaming anche illegale, va detto. E comunque Wikipedia, che è un'enciclopedia molto più grande, quindi è stato comunque possibile aggiornarsi su film in generale. E infatti ne stavamo parlando prima con mamma, c'è stato un momento in cui lo scambio, io ti faccio vedere un film, tu mi fai vedere un altro, è diventato paritario. C'erano dei momenti in cui mia mamma mi faceva vedere dei film e dopo i 14-15 anni ero anch'io che potevo proporle dei film che scoprivo, e quindi diventava automaticamente uno scambio equo, uno scambio più maturo. E parlando di maturità, arriviamo anche al dramma storico con un film di Stanley Kramer che mia mamma ha amato e mi ha subito fatto vedere, ha subito acquistato il DVD e me l'ha subito messo all'interno del lettore DVD per vederlo insieme. E parliamo del film Vincitori e Vinti. Un film bellissimo che ricostruisce il processo di Norimberga. Quando è stato girato questo film? Non lo so, controlliamo. Allora, bianco e nero, no, mi sembra strano. 1961. Un film del 1961 con un cast stellare, Montgomery Clift, Burt Lancaster, Spencer Tracy, Marilyn Dietrich, Marlene Dietrich, che parla appunto del processo di Norimberga. È un film bellissimo che veramente dovrebbero vedere tutti, ha avuto 8 nomination e 2 statuette. È la storia di un magistrato americano che deve giudicare 4 giudici tedeschi, nazisti, e quindi a processo viene fuori tutta la debolezza, la fragilità di questi giudici, soprattutto il ruolo di Burt Lancaster, che sembra essere ricoprire il ruolo del giudice più scrupoloso, più attento, e alla fine quasi dice di non aver mai capito nulla, no? E quasi di volesse essere assolto perché non si era accorto di quanto stesse succedendo intorno. E quindi è un film molto molto bello, che parla anche dell'omosessualità, di come queste persone vi venivano perseguite, gli ebrei, vabbè, manco a dirlo. Un film bellissimo, bellissimo veramente. Sì, mi ricordo soprattutto un dettaglio molto particolare di Vincitori e Vinti. C'è una scena in cui Marlene Dietrich e Spencer Tracy camminano di sera e sentono i tedeschi fare dei cori, e insomma Spencer Tracy dice: a voi tedeschi piace molto cantare. Marlene Dietrich dice: sì, però se ascolti sono canzoni tristi. E infatti in quel momento stavano cantando Lili Marlene, che è stata una delle canzoni riproposte da Marlene Dietrich durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, che andava in onda sulla radio Londra. E una canzone di guerra provocatoria, e c'è questa scena bellissima in cui si sente il sottofondo, il coro di questi ragazzi, e Marlene Dietrich che decide di tradurre dal tedesco all'inglese la parte di, diciamo, il ritornello di Lili Marlene, in cui si evince proprio la storia drammatica di questo soldato che sa che deve andare in guerra e si chiede se la sua ragazza sarà ancora lì ad aspettarlo sotto questo lampione, e la ragazza appunto è Lili Marlene. Quindi paradossalmente in un film che parla di guerra, forse io sono davvero una vecchia romanticona, ma mi è rimasto impresso questo momento. Tuttavia non ci siamo nemmeno fatte mancare la commedia all'italiana, in un modo specifico Edoardo De Filippo, e in modo specifico in realtà un film che a Edoardo De Filippo non piacque, paradossalmente, e cioè mi riferisco a Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica. Sì, una commedia tratta dalla commedia di Edoardo De Filippo, girato con la regia di De Sica. E probabilmente non sarà piaciuto perché è stato reso sul grande schermo in maniera diversa rispetto a quando era comunque, quando veniva trasmesso in... no, trasmesso. Sì, trasmesso, veniva trasmesso anche sia quando veniva messo in scena in teatro, sia quando è stato trasmesso. Poi, noi abbiamo visto anche la versione filmica di De Filippo. Con Titina De Filippo. Ma questa, diciamo, è una commedia drammatica, però anche con dei risvolti anche piuttosto allegri. Mm-hmm. Ciò non toglie che di base è comunque un dramma. Mm-hmm. Il dramma della prostituzione, il dramma del dopoguerra, il dramma di questi figli illegittimi che venivano abbandonati, cresciuti da altri perché impossibilitati ad essere cresciuti dalla mamma in quanto prostituta. Il solito maschio italiano benestante che approfitta di questa donna, portandosela, diciamo, a vivere con lui, ma soltanto perché aveva bisogno prima di una badante per la mamma, e poi per essere accudito lui stesso, fino a quando poi, vabbè, decide di sposare un'altra donna, e più si apre, diciamo, uno scenario divertente ma drammatico, ripeto, molto drammatico, che però poi alla fine si risolve al meglio, e per tutti, sia per loro in quanto coppia che per i figli, che finalmente conoscono la mamma e vivono con lei, no? Sì, è una versione differente rispetto a quella teatrale di De Filippo. Soprattutto prima dicevamo che noi abbiamo visto anche in realtà la versione filmica con Titina ed Edoardo. E una componente che ci fece storcere il naso subito, ammette, fu il fatto che comunque, trattandosi di fratello e sorella, perché Edoardo e Titina erano fratello e sorella, mancava quella chimica, quell'erotismo di base che ovviamente tra Marcello Mastroianni e Sofia Loren c'è. Soprattutto il personaggio di Filomena Marturiano viene descritta come una delle prostitute più belle del bordello, e con tutto il rispetto per Titina, grandissima attrice, non me ne voglia, però una bellezza più sensuale come quella di Sofia Loren, unita ovviamente al suo potenziale, al suo potere recitativo, è molto più azzeccato, se vogliamo. Rispecchia anche i canoni della bellezza mediterranea di quegli anni, mm-hmm. che voleva la donna bella, prosperosa, appariscente. Titina non aveva nulla di tutto questo. Poi chiaramente il personaggio di Mimì, interpretato dal fratello, secondo me, a parer mio, non tanto stava bene, perché comunque erano anche due persone che si somigliavano tantissimo. È vero. Quindi sembrava quasi incestuosa sta la cosa, a parer mio, però. No, assolutamente, è vero, perché avevano tutto questo naso importante. No, però... Erano la stessa faccia, sì. Erano la stessa faccia, lui maschio e lei donna, insomma. Sì, quindi in realtà noi per ora preferiamo la versione filmica. Io ho visto anche l'ultima rappresentazione che ha fatto Liliana Cavani di Filomena Marturano, molto molto bella, però anche lì non c'erano fratello e sorella a fare i protagonisti. E quindi qui noi abbiamo adesso portato in ballo una serie di film, però ovviamente ce ne sono stati altri, e mi è venuto in mente invece un episodio che scattò volontariamente in realtà, cioè era un periodo estivo in cui Rai Movie stava trasmettendo alcuni film di Bergman. E Bergman verso i miei 15 anni è diventato tipo il mio mito, lo è ancora adesso, ho iniziato a vedermi tutta la sua filmografia, e quel pomeriggio stavano trasmettendo Sinfonia d'autunno con Ingrid Bergman e Liv Ullmann, e io avevo iniziato a vederlo, tutti si è messa vicino a me sul divano. E in sintesi, di cosa parla Sinfonia d'autunno? Parla del rapporto tra una mamma, Ingrid Bergman, che è una pianista affermata, che ha sempre, diciamo, prediletto la carriera rispetto alle cure delle figlie, e appunto di questa figlia, Liv Ullmann, che non percepisce questa madre distante, pensa quasi che la mamma voglia punirla in un qualche modo. E poi c'è un'altra figura, che è quella della sorella con problemi autistici, che è una figura molto, molto tragica, ma qui parliamo di Bergman e lui figure tragiche le deve sempre ficcare. E quando, finito il film, tu ti preoccupasti e dicesti: ma tu pensi che il nostro rapporto sia così? Ma è successo qualcosa? Cioè, comunque è stata un'occasione per parlare anche del nostro rapporto. Non so se te lo ricordi come episodio. Fu in estate. Vagamente, però... No. Sì, mi ricordo anche che... Sì, io rimasi estasiata dal monologo. Quello finale di Ingrid Bergman, sì, quello mi lasciò proprio basita, bellissimo, mm-hmm. bellissimo. E probabilmente sì, ti avrò chiesto una cosa del genere, perché comunque un genitore si deve mettere sempre in discussione. Poi una figlia che in età adolescenziale vede un film del genere, avendo anche, voglio dire, anche una situazione particolare, familiare, mi ha portata a chiederti se questo film ti interessasse in maniera particolare per qualche motivo. Sì. No, sì, ci sta come cosa. Mi ricordo anche quando che ci fu una volta, sempre nella preadolescenza, in cui nella mia classe delle medie girava molto il libro di Christian Effi, I ragazzi dello zoo di Berlino, perché fu un libro didattico proprio, ci fu dato dalla nostra docente. Io poi decidi di mia iniziativa di vedermi il film, Tu tornasti dal lavoro, io ti aprì la porta e mi vedessi tipo sbiancata, terrorizzata, e mi chiedessi che è successo. Io tipo ho visto il film I ragazzi dello zoo di Berlino, e tu ti preoccupasti un sacco, dicesti ma come ti viene in mente, è un film troppo duro. La stessa cosa di quando mi vidi la notte delle matite spezzate, di cui mi parlasti sempre tu, e poi passai la giornata a pensare ai Desaparecidos, e tu mi dicesti ma perché magari non ce lo siamo visti insieme, non hai aspettato me. Infatti ci sono dei film che comunque vanno visti sempre accompagnati da una persona adulta, perché una persona adulta ti può aiutare a capire determinati meccanismi che possono lasciare sicuramente un figlio, una figlia in età adolescenziale comunque traumatizzata anche. Anche tu mi dicesti che addirittura tornando indietro alle scuole elementari, quando vedesti comunque Roma città aperta oppure delle scene riguardanti Auschwitz eccetera, ti avevano messo tanta paura, e dopo tanti anni avresti il coraggio di parlare di questa cosa. Quindi viversi questi film da soli non va bene, perché non tutti hanno la capacità di tirar fuori quello, la paura che in quel momento stanno vivendo, e quindi è necessario che ci sia una persona adulta con la quale poter parlare, anche tirar fuori le paure che in quel momento il film ti sta facendo provare. Sì. Sì, no, assolutamente, ma infatti questo episodio è un po' diverso dai soliti. Ma perché è un episodio che vuole sensibilizzare all'uso del cinema. Nel primo episodio con Gianmarco Basta, essendo lui un professore, abbiamo parlato di quanto sia importante in realtà inserire a un certo punto la materia cinema a scuola, perché molte volte, almeno in Italia, noi abbiamo la fortuna di sfiorare il cinema quando riusciamo ad arrivare l'ultimo anno di liceo alla corrente neorealista. E parlando di neorealismo letterario dobbiamo inevitabilmente parlare anche di neorealismo cinematografico, perché la corrente letteraria nasce dal neorealismo cinematografico. Quindi un briciolo, un minimo di cinema ce l'abbiamo, però un cinema, se vogliamo, già evoluto, che sicuramente rappresenta un grande pezzo di storia, perché come hai detto tu, Roma città aperta su di me fece un effetto strano, perché comunque, cavolo, è un film sulla guerra girato mentre la guerra era in atto, quindi anche La Ciociara molti anni dopo non mi fece un effetto tranquillissimo. Però insomma la situazione è anche questa, e in questa puntata l'obiettivo principale è far capire che noi siamo, soprattutto adesso, i bambini che nascono adesso si trovano all'interno di una società costellata dalle immagini, che possono essere immagini che si vedono in televisione, sul grande schermo, tramite i cartoni animati o tramite internet o sul cellulare. Ormai le immagini sono letteralmente ovunque. Quindi uno studio delle immagini, che sicuramente dovrebbe avvenire a scuola, io ritengo che dovrebbe avvenire anche all'interno della famiglia. Voglio dire, sì, come ha detto mamma, lei ha trovato terreno fertile in me, ma alla fine tutti noi siamo terreno fertile, perché il cinema parla di noi, parla sostanzialmente della vita. Anzi, forse arriva ancora prima di un libro, no? Sì. Perché da bambini la prima cosa che si vedono sono le immagini. Poi bisogna affiancare a dei buoni film anche dei buoni libri, e questo è proprio l'ottimo, diciamo, per crescere dei figli, no? Perché è anche molto bello leggere un libro e poi vedere il film. È molto bello scoprire cos'è meglio, se è stato meglio il una libro. Lunga diatriba, sì, riguardo. Ci sono dei libri che indubbiamente non rendono trasportati a livello cinematografico, ma ci sono anche dei film molto belli che superano il libro. È vero. E in sintesi, in questa puntata, e mia mamma sta crepando qua vicino a me, è stata una puntata per me molto divertente, anche un po', come avevo detto all'inizio, sarebbe stata una puntata nostalgica, perché abbiamo un po' ripercorso. Ora, da persona che è stata cresciuta in questo modo, io adesso studio cinema, quindi sicuramente c'era molto terreno fertile, però mi rendo conto che molte volte delle mie emozioni contraddittorie, pensieri che non capivo riguardanti qualsiasi ambito politico, sociale, sessuale, Il cinema è sempre stato uno strumento molto forte ed è stato forse lo strumento a cui prima mi sono approcciata, perché qualcuno mi ci ha fatto approcciare subito, e anche nei momenti in cui magari durante l'adolescenza subiamo bullismo, cyberbullismo, confrontarci faccia a faccia, perché noi alla fine con l'attore e il personaggio nel cinema ci troviamo faccia a faccia, dà un senso di liberazione, di equalità che raramente si riesce a provare con altre arti. Quindi ovviamente noi non siamo la coppia perfetta, non è un modello educativo che deve diventare il modello Montessori, non assolutamente, però è comunque un appello e un consiglio a cuor leggero che stiamo dando attraverso l'uso di un podcast, perché come dice il titolo di questa puntata, i bambini ci guardano, e questo è un riferimento ovviamente al film di De Sica. E i bambini ci guardano, i bambini guardano, e i bambini devono anche imparare a guardare. E con questo io vi saluto, ringrazio ancora mia mamma. Ciao a tutti, e scusate se non sono stata proprio all'altezza, perché non sono abituata. Non è abituata a parlare, quindi ciao a tutti. Ciao a tutti, la facciamo riposare adesso. E va bene, e detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.